Corrono tempi duri per i koala di Kangaroo Island nell'Australia del Sud. Il koala, Phascolarctos cinereus, come certamente saprete, è quel grazioso marsupiale dall'aspetto d'orsacchiotto, con le orecchie tonde e una morbida pelliccia grigia, uso ad arrampicarsi sugli alberi d'eucalipto, delle cui foglie si pasce, rappresentano il suo unico alimento in realtà, tenendo i suoi piccoli solidamente aggrappati alla schiena. È una bestia simpaticissima, soprattutto quando è riprodotta in peluche, e con i canguri è l'animale simbolo dell'Australia. O meglio lo era, perché in quel continente da tempo è a rischio di estinzione. Per fortuna un certo numero di esemplari sono stati introdotti già nel 1920 a Kangaroo Island, dove si sono trovati benissimo, si sono riprodotti in pace e serenità e hanno dato origine a una popolazione protetta e di rispettabili dimensioni. La densità media pare sia quella di 5-6 koala per ettaro, che sono troppi, perché a causa dello sviluppo dell'agricoltura di eucalipti disponibili non ce ne sono più molti, e il rischio che i koala si rimangino tutti, autocondannandosi a una definitiva estinzione, è tutt'altro anche da trascurare. Sono cose che succedono nel mondo animale, lo sappiamo. Le specie protette spesso abusano, per così dire, della protezione di cui godono, tendono ad allargarsi un po' troppo, almeno dal punto di vista dei protettori, e allora cominciano le lamentele, anche perché gli umani residenti nei dintorni non sono sempre d'accordo, e non è necessario andare in Australia per trovare degli esempi, e chiunque abbia provato a coltivare qui nell'Italia settentrionale un orto, in una zona di rispetto avifaunicolo, di caccia vietata, sa quale catastrofe possano rappresentare i fagiani, vista la loro passione sfrenata per i pomidoro maturi. I cinghiali introdotti a ripopolare per la gioia dei cacciatori le macchie della maremma, notoriamente sono visti come il fumo negli occhi dagli agricoltori locali. E più in generale, le popolazioni animali dei grandi parchi nazionali di tutto il mondo, coccolate dai ranger, viziate dai turisti ed esenti da minacce da parte dei loro nemici naturali, tendono a proliferare un po' oltre misura. In questi casi la regola, discutibile finché si vuole, dolorosa finché si vuole, è quella di abbattere un certo numero di capi. Dalla stessa fonte che ci informa del problema dei koala di Kangaroo Island, che poi è un vecchio numero del manifesto del 7 marzo, apprendiamo che tra l'entusiasmo delle popolazioni locali, oltre metà dei bisonti del Parco Nazionale di Yellowstone nell'Indiana, non nel Montana, scusate, quello dell'orso Yogi, recentemente sono stati stesi a fucilate senza pietà. Ora, i bisonti comunemente sono considerati una specie in via d'estinzione, ma quelli di Yellowstone erano un po' troppi, erano più di 3.400. Tendevano a sconfinare sempre più spesso e, come se non bastasse, erano portatori di brucellosi, che è una malattia molto pericolosa per le mandrie bovine confinanti. E anche i 1700 superstiti non hanno da stare allegri, perché nel Montana allinea una scuola di pensiero per cui forse sarebbe meglio accopparli tutti e ricominciare il popolamento da capo con degli esemplari accuratamente sani. È vero che i bisonti da brucellosi la prendono normalmente dalle alci, ma nulla vieterebbe di far fuori anche quelle, che tanto estinguersi le alci non ci pensano nemmeno. I koala però sono esenti da questo rischio. Sono un'attrazione turistica, la sola idea di massacrarli avrebbe ripercussioni terribili su quella che è la principale fonte di reddito dell'isola. Anche i bisonti, veramente, come tutte le specie che vivono in uno stato, diciamo così, selvaggio a Yellowstone, sono attrazioni dello stesso tipo. Ma evidentemente ai turisti americani l'idea di vederli abbattere a schioppettate non dà il minimo fastidio. A quanto pare nell'immaginario collettivo statunitense l'idea di sparare ai bisonti ha diritto di cittadinanza, mentre in quello australiano l'idea di sparare ai koala no. E non solo, perché la carne di bisonte è notoriamente parecchio gustosa, mentre quella dei koala non sembra avere valore alimentare. Il fatto è che i koala sono troppo carini. Sono troppo carini, con quella pelliccia morbida, con quell'aspetto sacchiottesco, quello sguardo da gufo saggio e quei piccoli cuorini in groppa. E sono troppo identificati con i pupazzi di peluche cari ai bambini di tutto il mondo perché si possa prendere in considerazione l'idea di farne un oggetto da tiro al bersaglio. La televisione trasmetterebbe senz'altro la scena e ve li immaginate che piante in tutte le case, non soltanto in Australia. E per adesso le autorità stanno cercando di risolvere il problema mediante una specie di sterilizzazione di massa, ma sembra che sia più difficile di quanto non sembri. Per cui si finirà per mettere a cuccia agli agricoltori e per piantare dei nuovi eucalipti, i quali aumenteranno di numero ancora di più. Tra qualche decennio il problema si riproporrà da capo, ma almeno a doverlo risolvere sarà qualcun altro. Insomma, anche quando cerca di restituire gli animali a un preteso stato di natura, ristabilendo l'equilibrio che lui stesso ha turbato, l'uomo non rinuncia ad antropomorfizzarli. I coari bisonti naturalmente non sono né belli né brutti, fanno solo il loro mestiere, sono entrambi degli animali pacifici, vegetariani, che un tempo popolavano delle aree estesissime e che adesso sono ridotti in poche aree di rispetto, nelle quali cercano di arrangiarsi come possono. Ma anche lì evidentemente il loro destino biologico dipende da elementi tutt'altro che naturali, dipende da come la cultura umana tende a concettualizzarli. I bisonti sono tradizionalmente oggetto di caccia, boom boom. I koala sono oggetto di gioco, di intrattenimento, carezzine, carezzine. Agli uni si spara e agli altri no. È ingiusto, sì, ma che cosa ci volete fare? Il paradiso terrestre è chiuso da un pezzo. E l'unico equilibrio che l'uomo è disposto ad accettare sulla terra e altrove è quello dei suoi contrastanti interessi.